solo siete il mio amore. Ma come? Se l'ho sentita io stesso dirle, anima mia. Allora scherzai. Se mi deste una prova, il crederei. Animo, comandate. Un sol momento trattenetevi qua. Clarice, in breve farò venire a voi. Se voi mi amate, dovrete dire a lei che il vostro cuore dell'amor suo ricusa l'alto onore. Là, dietro a quella porta, io vi starò ascoltare. Farò quanto bramate e di più ancora. Dunque vado a chiamarla e ricordate che là dietro saprò quanto mi amate.